140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Park Hyatt, Milano. La storia di un pittore che non lo era e della moglie che reggeva la bugia. Tim Burton in Big Eyes dirige un multiforme Christoph Waltz. Everybody is more than one character. Everybody is, you know, only the most. Tutti hanno in sé più di un personaggio. Solo le persone più noiose hanno un lato solo. E persino queste persone hanno più aspetti della personalità. Forse solo i morti hanno una sola qualità ed è la morte. Only a dead person has one quality only, and that's dead. È interessante trovare un equilibrio. Certo, molte persone fanno emergere più caratteristiche in superficie e questo le rende più interessanti. La cosa interessante è osservare quali caratteristiche sono prevalenti, quali più vivaci, quali più sopite. Beh, diciamo che conosco qualcuno che nel XIX secolo ha tirato fuori una bella teoria in merito e ci ha costruito sopra una gran carriera. Visto a cosa siamo arrivati, tu sei il solo a cui posso confessare il mio segreto. Ho dipinto ognuno di quei quadri, ognuno di quei grandi occhi, io. E tu sei l'unico che lo saprà mai. Piacerà da morire questa roba. Che occhi grandi, perché? Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Per questo sono così grandi, li ho sempre dipinti così. Perché stai mentendo? L'arte firmata da donne non vende. E poi qui c'è scritto Keen. Io sono Keen, tu sei Keen. Sorrida. È tutto venduto. La gente adora i tuoi occhioni. La storia è quella di Margaret Keane, pittrice degli anni 50, famosissima per questi bambini con gli occhi enormi, e del marito Walter, che per anni è stato ritenuto il vero autore delle opere della moglie. È la storia di una grande bugia oppure no? Dopotutto la moglie all'inizio era d'accordo. Well, is that a lie? I mean, it's called marketing. I knew the paintings, I didn't know the story. Era davvero una bugia? O si chiama solo marketing? Conoscevo i dipinti, ma non la loro storia. Il marketing, le teorie della pubblicità, sono un'invenzione di quell'epoca, anche se la propaganda esisteva già da prima. Quello che colpisce, però, nella storia è il meccanismo delle relazioni, del rapporto tra marito e moglie. I didn't know anything about that. Io, come tutti, non sapevo nulla di quello che c'era dietro quelle immagini che erano diffusissime. Nessuno sapeva la verità, perché a nessuno in realtà interessava. È per questo che quello che ci colpisce in realtà è quello che succede nella coppia. Lui mentiva al pubblico, ma lei lo sapeva. All'inizio erano d'accordo perché serviva all'immagine pubblica, al marketing. Look what happens to art nowadays. Pensiamo a quello che succede al giorno d'oggi. È tutto marketing, niente è arte. È solo uno dei tanti beni fittizi che creano capitale. Mi ricordo quando mamma l'ha dipinto. Ti confondi, l'ho dipinta io. Cos'è che la tormenta? Ho mentito a mia figlia e non sono una che mente. E suo marito invece mente. Questi quadri sono parte della mia vita. Forse dovrei firmarli col mio nome. Non starei facendo un po' di confusione? Chi sono io, Margaret? Vuoi restituire tutti i soldi? Se lo dici a qualcuno, questo impero crollerà! Se questo è il prezzo, è come un miraggio. Da lontano vedi una pittrice. Poi ti avvicini e non vedi più niente. Lei ha vinto due premi Oscar, 2010-2013, come miglior attore non protagonista, il primo per Bastardi senza gloria, il secondo per Django Unchained. Ma un Oscar cambia la vita. A lei i premi Oscar hanno cambiato la vita? Of course it changed everything profoundly. Sì, certo, ha cambiato tutto profondamente. Ma non so se sono stati gli Oscar o il lavoro stesso che mi ha portato a vincerli. Mi piace pensare, o chissà, illudermi, che sia stato per quello che ho costruito. L'Oscar in sé è un riconoscimento immenso. Non posso usarlo come un oggetto, non so, una leva, un apriscatole. È troppo tondeggiante, non ha la forma giusta. Use the Oscar as a lever. Break things open, you know, it's too round. Scherzi a parte, non so bene come rispondere a questa domanda. Certo, le cose sono cambiate per me, ma mi piace pensare che gli Oscar siano un simbolo di quello che ha portato al cambiamento, piuttosto che rappresentare il cambiamento in sé. The Oscars are sort of a symbol of what led to that change rather than represent the change itself. Qualche giorno fa è stato annunciato il nuovo Bond, Spectre. Lei sarà, probabilmente, non si può ancora sapere molto, il nuovo cattivo. Ma perché spesso i registi la vedono nella parte del cattivo? Lei ha un'aria così pacifica. What can I do? Cosa posso farci? Non so, ci perdono loro. It's their loss. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Christoph Waltz. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.